Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno, ci siamo e siamo allo spazio Emilia Romagna. Io se allungo un po' la vista vedo l'albero della vita, perché siamo nello spazio dell'Emilia Romagna dentro a Expo, e già ve lo anticipo, tra poco ne parleremo, l'hashtag è tutta un'altra Expo, ma tra poco vi spiegheremo perché. Fatemi fare il riepilogo, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre, anche se siamo qui, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Beh, insomma, se questo pomeriggio venite a fare un giro a Expo e passate qui dal Cardo, dal Padiglione Italia, siamo nello spazio Emilia Romagna, ci vedete, ma ci sono anche due strumenti, i soliti, rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola e l'hashtag cancellettoISDV. Di cosa parleremo nella prima ora che passeremo insieme? Beh, parleremo di cocktail, parleremo di consigli per andare a mangiare bene in Emilia Romagna, ovviamente, poi parleremo di tecnologia, in particolare parleremo di videoproiettori, e poi tutte le novità al cinema del fine settimana, come sempre. Ma ora cominciamo la prima ora del sabato del villaggio parlando di Expo. Io l'ho detto che l'hashtag è tutta un'altra Expo, e allora ne parliamo subito con chi di Expo conosce anche i meandri, tutti i segreti. Giacomo Biraghi. Giacomo, eccoci, bentornato qua al sabato del villaggio. Ci, grazie, siamo salutati il 4 luglio, sì, il massimo esperto di Expo sulla faccia di Expo, possiamo sì, dire. Assolutamente. Ci siamo salutati il 4 luglio e c'era gente, c'era abbastanza gente. Faceva anche caldo. Faceva un grande caldo. C'era abbastanza gente, ma... Allora, io ti posso dire che ci ho messo quasi mezz'ora a arrivare a piedi dalla metropolitana al Padiglione Italia. Chi è stato a Expo dice sì, la strada è lunga, ma non ho passeggiato, ho camminato velocemente. C'è il delirio. Diciamola tutta, è successo qualcosa tra il 10 e il 15 agosto, non ce l'aspettavamo neanche noi, che sapevamo che il 40% dei visitatori sarebbero stati negli ultimi due mesi, ma non aspettavamo un click così immediato, e quindi una folla incredibile dal 10 agosto, in particolare da Ferragosto, ogni giorno calca di più questo decumano, il Cardo, i padiglioni, è diventato cool adesso fare la foto della attesa nel Giappone, c'è un fantastico, non so se l'hai visto. Oggi di quant'era la... Oggi di 7 ore. No, vabbè, allora diciamolo, puoi, con tutto l'affetto per il Giappone, per il padiglione del Giappone, per, certo, Expo, guarda, ci metto tutto, però puoi voler fare 7 ore di fila solo per farti il selfie. Di cioè, fatto, non c'è altra ragione. Di fatto prima il passaporto era la grande conquista. Ah sì, il passaporto, timbri, che ecco, andavi in tutti i padiglioni, ti facevi fare un timbro speciale, esatto, un passaporto fatto, esatto, ad hoc. Un gadget, adesso non basta più, non è più così fattore di vanto, come l'essere sopravvissuti a il Giappone, l'Azerbaigian, il Kazakistan, l'Italia. Come vedi, la fila che vedi qua dell'Italia è in realtà il terminale di un serpentone che parte dalla piazza. Ma non lo so quante persone sono, è impressionante. Allora, io sono stata Expo così così, Expo ottimista, Expo pessimista, Expo arrabbiata, adesso oggi sono un po' Expo incredula. Ecco, benissimo. Allora, diamo anche dei consigli. Ecco, se vuoi, al sabato del villaggio noi diamo sempre, noi diciamo i liberi consigli per il fine settimana, diamo dei consigli per venire a Expo. Ti riporto le domande che fanno, vai, a me. La domanda che mi fanno sempre è: ma a questo punto quando venire a Expo? Qual è il momento migliore, visto che allora oggi credo che sia il record? Potrebbe essere, adesso l'ultimo record è di sabato scorso, 245.000 persone contemporanee. Sabato prima 200.000. Quindi il sabato mette male. Sabato del villaggio state a casa, ascoltate la radio. Sabato mette male. Sabato pomeriggio state lì tranquilli o fate un giretto con la radio accesa. A Expo a vostro rischio e pericolo. La domenica abbiamo notato, forse perché si sta a casa, forse perché è il giorno in cui ci si riposa prima di lavorare, c'è meno gente. Ah, meglio la domenica del sabato, non l'avrei mai detto. Questo è un'indicazione sicura. Preziosa. E poi ovviamente lunedì pomeriggio e martedì pomeriggio molto bene. Quindi se uno ha la possibilità di prendersi un giorno dai famosi parrucchieri che si diceva una volta. anch'io non lavoro lunedì. O ai giornalisti. Che vanno in onda il sabato, sono a casa il lunedì. Lunedì pomeriggio, dopo pranzo, alle 2, c'è grande agio nel poter visitare magari quei famosi 20 padiglioni che si riuscivano a fare in un giorno a maggio. Adesso è un po' difficile. Beh, con 7 ore di fila al Giappone ci vuole il giorno del Giappone. Assolutamente. Bisogna fare come Selfie del Giappone. Il selfie del Giappone, io non ve lo prometto, non vi prometto. Metto le 7 ore di fila per farmi il selfie, però. Allora, torniamo a quello che si diceva mesi fa. Allora, tante volte le prime polemiche erano: ah sì, però si mangia bene, male, si spende tanto. Quella cosa lì è caduta, non se ne parla più. Perché? Perché, come in tutte le città, si è scoperto che non c'è solo il corso principale, ma ci sono i quartieri in via di sviluppo, le piazzette un po' più nascoste, quindi la gente ha cominciato a conoscere l'Eritrea, il Libano, le tigelle, i panini con la mortadella, cose che con 2-3 euro ti permettono di fare un giro del mondo culinario, ma anche risparmiare un po'. Tu cosa, anche l'altra volta te l'avevo chiesto, però è passato un mese e mezzo, adesso cosa hai provato di irresistibile che hai detto... Qui ritorno. Devo dire che i famosi che ti sei perso perché sono venuti tra luglio e agosto, hamburger di zebra che e di coccodrillo, me l'hanno detto. Non erano solo esotici, ma anche molto buoni. E poi ieri l'altro sono andato, è arrivata finalmente l'autorizzazione dalla ASL e quindi gli insetti possono essere mangiati nel Belgio, che vedo che hai la stessa faccia di quando ti dicevo che nel Kazakistan c'era il famoso latte di giumenta che Renzi beve. Spense il fuoco, che beve. No, allora devo dirti la verità: la zebra e il coccodrillo mi fanno un po' tenerezza, non so se riuscirei a mangiarli. Gli insetti che mi stanno antipatici, magari, non lo so. Poi sono spezzettati, cioè sono quindi una sorta di farina che poi si ricompone in dei biscotti. Quindi tu li hai mangiati? Ho mangiato i biscotti in Belgio fatti di farina di insetti. Allora io chiederei subito un parere al nostro gastronauta, ce l'abbiamo in linea, Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Ti chiedo solo se hai mangiato mai gli insetti, visto che tu hai provato tutto. Cosa mi dici? Ho mangiato un pane che era fatto con farina di cavallette. Ed era come? Ma guarda, se tu lo mangiavi senza sapere che era farina di cavallette, probabilmente non avresti mai pensato a un insetto, quindi era piacevole, molto piacevole. Ah, devo dirti che effettivamente messa così, e poi tenendo conto delle problematiche che ci sono in tanti paesi in cui il clima dà dei problemi alle coltivazioni e gli insetti come possibilità di ampliare le materie prime per cucinare, mi consola, vuol dire che non è una cosa così tragica. Però la FAO prevede che nel 2050 per sfamare l'umanità bisogna ricorrere anche a questo, quindi bisogna rifletterci un secondo. Allora Davide, io però voglio introdurre il tema di oggi con un audio che chiedo alla regia di mandare. Cosa pretendi? Che la scappi a morsi? Vieni, ecco le ricette. Ti ho ordinato anche un Cuba Libre. Scusi, posso avere un bicchiere? Cuba Libre? Subito. Anche come si prepara? Ora arriva. Io non mi muovo di qui finché non avrò il mio Cuba Libre. Scusi, potrei avere un orgasmo? Ah, questo non è quello che avevo ordinato. Buttar via! Non potevi semplicemente dirmi rum e coca? Posso avere quello che ho ordinato, per favore? A me un vino bianco! Un big squirrel! Un fryer turk! Un dingaling! Un vino bianco! Cosa? Un big squirrel! Un dirty mother! Posso avere quello che ho ordinato? Ok, d'accordo. D'accordo. Che cos'è che avevi ordinato? Un martini! Che cosa c'è dentro? Beh, non potevo potevo non introdurre il tema dei cocktail, un po' con Tom Cruise in Cocktail, un po' con Cocktail d'amore di Stefania Rotolo, che è un grande, grandissimo classico. Davide, come sempre, come tutte le settimane, te la dedico, a te, Cocktail d'amore. Davide, i cocktail sono una tendenza, sono tornati di moda, sono sempre tornati di moda. Cosa ci dici, Davide? Bah, diciamo che sono sempre stati di moda, però ora sono più di moda di ieri, come si dice, meno di ieri, più di domani, nel senso che negli ultimi 3 o 4 anni veramente si assiste a un boom anche di tendenze. Addirittura la tendenza forse più diffusa è quella di abbinare oggi il cibo ai cocktail. Ecco, ieri non c'era questo grande movimento, oggi c'è e ci sono molti locali che sono nati su questo. A Milano, per esempio, c'è una pizzeria che è Dry, dove si fanno degli ottimi cocktail abbinati alla pizza. Ci sono anche ristoranti in giro per l'Italia che fanno questo. Guarda, anche in piena provincia, te ne dico uno, a Castrezzato, il ristorante da Nadia, si fanno cocktail abbinati al cibo, non solo, ma anche a Forlì. Don Abbondi, una trattoria, fa cocktail abbinati appunto al cibo. Ma Milano è un vero boom, ma anche nel resto d'Italia. Ti nominerò alcuni posti che ormai sono diventati veramente importanti. Ad esempio c'è Ugo Cocktail, che è un posto che dove la sera c'è una fila incredibile. E poi ancora ad esempio a Bologna c'è un locale che si chiama New Lounge, anche questo grande successo. A Como, Fresco Cocktail Shop. E poi ancora a Milano posso nominare Comini al Nottingham Forest, che questo qui è l'unico forse barman molecolare che c'è in Italia. Quindi come vedi ci sono delle tendenze sulle tendenze che si stanno sviluppando. E quali sono i cocktail più diffusi? Bene, il gin tonic rimane sempre un classico, gin e tonic diciamo che ovunque. Sta emergendo il pisco sour, per esempio con la moda della cucina peruviana, oppure anche il Moscow Mule, che mi dicono che quest'anno, negli ultimi 7-8 mesi, è quello che sta prendendo le ali, insomma, tra i più gettonati. Poi si potrebbe continuare ancora con lo spritz. Ecco, lo spritz per molti puristi. Ecco, lo spritz ci sono io sono appena tornata da Venezia, lo sai, ci sono tante scuole di pensiero, e lo spritz, e quando si parla di spritz c'è sempre qualcuno che si scandalizza, perché si deve fare in un modo o nell'altro. Si tocca una religione con lo spritz, ma direi che si tocca la religione dei cocktail, perché ci sono molti barman o mixologist, come si chiamano anche, che non vedono, non considerano tanto lo spritz. Però lo spritz è indubbiamente il più famoso e sta diventando famoso nel mondo, quindi è, diciamo, una cosa completamente italiana, con prodotti completamente italiani. Sì, è vero, ci può andare l'Aperol, il Campari, o addirittura in molti casi si trova anche il Cynar. Quindi è una moda. Non ho mai bevuto col Cynar. Sì, si beve anche con il Cynar, lo chiamano gin tonic, viene chiamato. E quindi ognuno fa quello che vuole su questo, anche se appunto quello tradizionale è prosecco, Aperol, e appunto qualcuno mette anche un cucchiaino di Campari per essere più perfetto, poi ovviamente diciamo dell'acqua tonica, oppure anche dell'acqua. Molti fanno acqua e vino. Ecco, originariamente era nel trevigiano e nel veneziano era acqua e vino lo spritz, però poi piano piano si è evoluto, grazie anche a un sito degli universitari di Padova. È stato un vero e proprio boom e lo hanno diffuso abbastanza a livello internazionale. Prima di dare la linea alla viabilità, e poi devo chiedere ancora qualcosa a Giacomo, ti chiedo, ci sono delle leggi, delle regole precise per i cocktail, soprattutto per quelli internazionali, vero? Beh sì, ci sono dei Vangeli su questo, e c'è un signore a Londra che è considerato il più importante al mondo appunto sui cocktail, che fa addirittura cocktail con i distillati degli anni 800, che si chiama Calabrese, è Salvatore Calabrese, e questo qui è un personaggio in cui tutti corrono quando fa delle esibizioni. Lui è al super esclusivo Playboy di Londra e detta legge, i suoi libri fanno test. Allora, infatti te l'ho detto che quando si trova si parla di spritz arrivano subito i messaggi. Marco da Treviso dice: vero spritz prosecco e acqua gasata e bianco. Ah, qui io penso che in ogni zona ci sia l'autentico spritz. Io conosco anche il Pirlo, che è parente, quello, vero? Quello è bresciano. Che è bresciano. E guarda caso Pirlo, il calciatore di Brescia. Sì, c'è un'analogia su questo. Allora, Davide, noi ci ritroviamo tra qualche istante perché abbiamo la linea alla viabilità, però ho ancora un sacco di cose da chiederti, dei cocktail ma anche qualcosa della Romagna, perché siamo nello spazio Emilia Romagna Expo, tra qualche istante perché ci sono tutte le indicazioni per chi sta viaggiando. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta il sabato del villaggio. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Beh, ma che belle musiche mi mettono qua a te, ma come ci divertiamo noi siamo qui, ve lo dico ancora, perché magari poi chi ascolta la radio sente che l'audio è un pochino diverso, perché siamo in esterna, siamo allo spazio Emilia Romagna, siamo sul Cardo, proprio vicino all'albero della vita, siamo a Expo, proprio nella zona del Padiglione Italia, vedo delle file per entrare al Padiglione Italia, ragazzi, oggi l'abbiamo detto nel primo blocco del sabato del villaggio, con noi c'è Giacomo Biraghi, il più esperto di tutti, faccia di terra, noi quando parliamo di Expo e siamo a Expo vogliamo lui perché ci dice tutti i segreti. Abbiamo in linea anche Davide Paolini che ci sta parlando di cocktail, ma cocktail è Expo, Giacomo? Expo come al solito è il mondo qua in Italia, quindi abbiamo avuto centinaia di diversi cocktail proposti dai vari paesi, ricordo per esempio il mitico appuntamento alle 8 per i cocktail russi sulla terrazza russa, che tra l'altro è uno dei posti più alti dell'Expo, da cui si vede a destra il Monte Rosa, sotto il Decumano e a sinistra i famosi grattacieli nuovi di Milano. Ah beh, cioè, ci sono anche ovviamente le annotazioni geografiche e anche panoramiche. E poi dal 20 agosto abbiamo installato proprio qua a pochi metri il Maker Shaker, che è un robot barman. Per la prima volta nel mondo l'MIT di Boston e Carlo Ratti hanno costruito questa macchina che ti permette di scegliere col telefonino gli ingredienti, quindi il nostro ascoltatore poteva scegliere acqua gasata e bianco, e poi il robot shakera di fronte a te in un modo spettacolare, prendendo i vari ingredienti, e ti propone il cocktail a gustare subito. Quindi questo ha avuto tanto successo ed è un modo anche per vedere non solo tutto il mondo qua a Milano, ma anche le innovazioni che arrivano dalla tecnologia. E poi oggi, per essere sempre negli alcolici, è la festa della birra. Ah, beh. Vuol dire che tanti paesi come l'Austria, il Cile, con delle birre particolari come la Quebrada, che è abbastanza rara, la Russia con la Baltica, Regno Unito, Ungheria, Slovenia, Monaco e Francia, propongono aperitivi a base di loro birre, e c'è anche un hashtag Beer Day dove la migliore foto pubblicata vincerà un set di birre esclusive. Quindi, straordinario, ecco, straordinario. Non mancano spunti anche dal mondo dentro Expo, non solo da Milano e dall'Italia. Giacomo Biraghi, che è un fan del Nottingham Forest, assolutamente. Detto. Invece io vado a Crema, vado al Barcellona, anche lì piatti abbinati ai cocktail. Ma Davide Paolini, hai detto questa cosa, mi è piaciuta molto. Appunto, cocktail abbinato ai piatti, che è una cosa assolutamente nuova e inedita per la cucina italiana, però la mia curiosità, proprio da profana, è: ma non è che uno si ubriaca? No, anzi, mangiando c'è meno pericolo sicuramente, perché metti dentro lo stomaco qualcosa e quindi non ti ubriachi. Quindi un po' si beve, un po' non si fa il cocktailone pesante. No, non direi, guarda, basta provare, sembra un'eresia. Certo, i romantici del vino non metterebbero al bando questa cosa, però io ho provato più volte perché anch'io ero un po' scettico, ma in realtà qualche volta su qualche piatto forse va bene, perché ci sono anche molti cuochi che ormai preparano dei piatti in cui mettono vicino il bicchierino con il cocktail, appunto ad esempio col fritto il mojito va benissimo. Ah, ma che meraviglia, ma che bella cosa mi dici. Io poi voglio svelare agli ascoltatori che Davide Paolini è colui che mi ha insegnato a fare gli scambi di coppia. Adesso non pensate a delle cose, non fate subito. Qui subito hanno fatto, ci sono Giacomo, ha fatto. No, non in quel senso lì, Davide, diciamolo. Lo scambio di coppie mortadella e champagne e ostriche, ecco, e lambrusco. E ostriche e lambrusco. Graspa rossa, lambrusco graspa rossa. Quindi ecco. E quindi anche... adesso il... Dimmi, dimmi Davide. No, dico, molti erano scettici anche su questo, poi quando hanno provato sicuramente hanno continuato a farlo, perché mortadella e champagne è l'abbinamento più straordinario, come lo champagne va benissimo anche con la pizza. Ah, straordinario. E poi questo nuovo che mi hai svelato, mojito e fritto, io sì, devo dire che ci proverei, ci proverei. Devo dirti che ieri sera ho bevuto un ottimo mojito a Spotorno, perché ieri ero a Spotorno per Spotorno, subito il premio di giornalismo. Ma come si giudica un buon cocktail? Perché io non sono un'esperta, sono, bevo una volta ogni tanto qualcosina, perché sono una signorina, con gli amici, ma come si giudica davvero un cocktail di qualità? Ma guarda, si dice che la pasticceria sia una scienza matematica. Io credo che anche i cocktail bisogna così seguire i canoni, quindi delle quantità. E poi certo c'è sempre il pizzico di fantasia e di tocco del bar, ma vorrei tornare sul robot. Io non berrei mai un cocktail fatto da un robot, perché secondo me la cosa più straordinaria dei cocktail è l'uomo che te li fa davanti. Soprattutto se sei un bel ragazzo, Davide, posso dire. Vabbè, io dirlo, una bella ragazza, un perché guarda, devo dire che è una professione molto, molto sviluppata ora. Ci sono delle bartender, come si chiamano, davvero, davvero molto importanti, e a livello internazionale e a livello italiano. Quindi ormai anche una bella ragazza. Però ricordiamoci che i cocktail sono nati e si sono sviluppati negli alberghi dove il, diciamo, l'uomo dei cocktail diventava il confidente alle 2 alle 3 di notte, sia di delusioni che di grandi entusiasmi. Ci sono tanti film che si vedono appunto qualcuno steso sul tavolo che quasi dorme davanti al barman e lui sta raccontando, e ci sono dei barman che hanno raccolto delle confidenze anche di uomini molto importanti. Poi mi viene in mente anche la serie televisiva Cheers, che da noi si chiama Cin Cin, anche il barista. Non vogliamo sapere le confidenze di Davide Paolini con i barman, ma mi farebbe molto così, sarebbe molto letteraria questa scena, e mi posso fare dei voli di fantasia, ma non ti chiederò niente, Davide. Invece vorrei, visto che noi siamo allo spazio Emilia Romagna, e siamo un po' a casa tua, Davide, perché tra poco arriverà anche Enrico Pagliarini, e quindi sempre in quelle zone stiamo. Distinguiamo tra Romagna e Emilia, per carità. No, ma per forza, guarda, sono bravissima. Io non sbaglio tra Emilia e Romagna, non sbaglio tra Friuli e Venezia Giulia, sto attentissima sempre. Però insomma, noi siamo allo spazio ovviamente Emilia Romagna, perché alla fine la regione è una. Tu hai avuto la fortuna nella tua vita di conoscere bene, e guarda, lo dico con un po' di invidia, uno straordinario personaggio, Davide. Sì, è Tonino Guerra, e nel mio ufficio ci sono i 13 manifesti alle pareti, proprio con 13 pensieri di Tonino Guerra. Ma Tonino Guerra è stato per me un Virgilio anche dal punto di vista gastronomico, perché a Sant'Arcangelo di Romagna, io farò un itinerario proprio seguendo le sue tracce, mi ha portato una volta, la prima volta che sono così l'ho conosciuto, a mangiare in una trattoria che si chiama Zaghini, dove secondo me lì si mangiano le migliori tagliatelle, le tagliatelle con il ragù di carne veramente fantastiche. Dopodiché lui, sempre a Sant'Arcangelo, ha trovato il nome della La Sangiovesa. La Sangiovesa è un posto dove si può mangiare piadina, diciamo, si possono fare merende e si può mangiare al ristorante. Quindi c'è la piadina, e la piadina è un fatto culturale molto importante, perché tra anche gli stessi romagnoli ci sono differenze tra diciamo un'area, un territorio e un altro. Lì si mangiano piadine con diverso tipo di companatico, e si mangiano anche i cassoni, si mangiano con formaggio vaccino, e devo dire che è un qualcosa, è un tortello enorme, per chiarire, ed è veramente una cosa straordinaria che spesso viene dimenticata assieme alla piadina. Appunto, dicevo, c'è la piadina alta e c'è la piadina bassa, un po' come la storia della pizza. E invece diciamo nella trattoria si mangiano diverse cose, ovviamente le tagliatelle, i passatelli, le lasagne al forno, pasta e fagioli, gli strozzapreti, ecco, un altro piatto importante della Romagna. Poi si sale da Sant'Arcangelo, andiamo a Torriana. A Torriana dove c'è un veramente un locale straordinario. Io direi che se la Sangiovese è molto da famiglia, mentre qui andiamo dai gourmet, e si chiama Osteria del Povero Diavolo. All'Osteria del Povero Diavolo c'è uno chef giovane, bravissimo, emergente, che si chiama Pier Giorgio Parini, no? Ormai più che un emergente, diciamo, è emerso. Ecco, lì si mangia a sorpresa, cioè ogni giorno Pier Giorgio Parini fa un menù a sorpresa. Se uno si adatta a mangiare a sorpresa, lui fa 3, 6, 9 piatti, o 3 piatti, o 6 piatti, o 9 piatti, e lì veramente c'è la creatività assoluta, perché lui ogni giorno si inventa qualcosa di nuovo, e quindi diciamo, se uno sta al gioco, veramente mangia una grande cucina. Saliamo ancora, andiamo a Pennabilli. Pennabilli è il posto veramente dove Tonino Guerra ha dato il meglio della fantasia, perché ha creato dei luoghi dal nulla, ha creato una località turistica senza, diciamo, praticamente spendere nulla, perché c'è il lavatoio con i suoi pensieri, c'è l'orto dei frutti dimenticati, c'è la Madonna, c'è una Madonna completamente inventata, veramente, che suona, c'è il rumore degli uccelli, quindi è veramente un paese magico. E qui c'è un ristorante che si chiama Piastrino, quindi un itinerario veramente fantastico, diciamo, sulle orme di Tonino Guerra. Mi sono dimenticato di dire che all'Osteria del Povero Diavolo Tonino Guerra ha disegnato alcuni quadri che sono dentro e le porte delle camere, quindi è veramente un qualcosa di diverso chi vuole andare a vedere questo posto, perché è anche una locanda, quindi all'Osteria del Povero Diavolo si dorme anche. Allora Davide, io vorrei invitarti a fare un balletto. Sentiamo se c'è la musica, l'ho fatta preparare. Col liscio? Sì, confesso di essere uno dei pochi romagnoli che sa ballare malissimo il liscio. Vabbè, anch'io non sono una gran ballerina, ce la caviamo in qualche modo, dai. Magari prima il cocktail, però, poi il liscio. Però l'ambrusco, dai. Dopo i cocktail so giocare benissimo a Marathon, che è il gioco tipico delle carte dei romagnoli. Quindi un bicchiere di Sangiovese con il Marathon al finale della serata, anche dopo i cocktail. Senti Davide, i romagnoli hanno sempre una soluzione a tutto, cioè il romagnolo ce l'ha sempre le risorse. Allora, quindi prima abbiamo detto che si litiga sullo spritz, anche sulle tagliatelle, perché Gianni ci scrive: ma Davide, le migliori tagliatelle al ragù si mangiano a Bologna. Allora io non voglio rinfocolare ancora la rivalità Emilia e Romagna, per carità, perché sennò poi noi qua siamo uno spazio Emilia-Romagna, dopo se no facciamo scoppiare la guerra, e non è il caso. Davide, grazie per essere stato con noi. Come sono contenta di avere Davide Paolini al Sabato del Villaggio, voi non avete idea. Allora prepariamoci un po' per le danze, per il liscio, e ci alleniamo e facciamo un balletto insieme, va bene? Niente, noi, Davide Paolini mi deve essere svenuto dopo questa proposta per il liscio. Davide, ci sei ancora? No, abbiamo perso Davide Paolini, il liscio era evidentemente una proposta un po' estrema. Allora, io saluto, anche se a distanza, Davide Paolini, perché ce lo siamo perso, ma sono davvero felice, felicissima di averlo al Sabato del Villaggio insieme a me tutti i sabati. Giacomo Biraghi, abbiamo citato Tonino Guerra, a proposito di ottimismo. È un mio ispiratore. Sì, perché tu il padre degli Expottimisti. Certo, io quasi 2 anni fa lanciai gli Expottimisti, e cosa più vicina all'ottimismo e il profumo della vita. Certo, beh, straordinario. Allora, ci ritroviamo tra pochissimo, perché sono le 15:29 in questo momento, quindi abbiamo una brevissima pausa, ma non ci abbandoniamo, perché siamo insieme fino alle 17, anzi fino alle 18 con Radio Tube. Poi saremo ancora con il Sabato del Villaggio, perché tra poco parliamo di tecnologie, tra pochissimo. Il Sabato del Villaggio. I am a cinematographer. Stiamo per parlare di grande schermo, anzi di grandi schermi. Allora, noi siamo con il Sabato del Villaggio allo spazio Emilia Romagna a Expo. Siamo proprio dove c'è il Padiglione Italia. Adesso io allungo il collo e vedo lì l'albero della vita. Chissà cosa. Adesso tra poco lo chiediamo cosa sarà di quest'albero della vita. Però prima di tutto vi ricordo che siamo insieme al Sabato del Villaggio fino alle 17, poi alle 17 e 18 abbiamo il nostro appuntamento con RadioTube. Potete farci compagnia, potete farci tutte le domande che volete anche su Expo, perché per quest'ora abbiamo il super esperto Giacomo Biraghi in studio. Ciao ancora Giacomo, ciao. Grazie per essere con noi. L'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. Allora, c'è qualcuno che questa settimana non è voluto venire a Expo. Intanto Giacomo, diciamogli subito che non è che si può aspettare tanto, perché fino al 31 ottobre e basta. C'è per una forza, voce incredibile che sta girando, le solite leggende metropolitane che piacciono tanto anche a Sabato del Villaggio, e che dice novembre, dicembre, Natale. No, no. Expo chiude per ragioni di regole e di anche pratica, non ci sono i riscaldamenti nei padiglioni, certo. Il decumano non regge la neve, per esempio, e quindi sì, il 31 ottobre a mezzanotte ad Halloween diamo a tutti un grande bastone e facciamo distruggere Expo. Ah, che roba. E ti chiedo anche cosa sarà secondo te dell'albero della vita, perché qualcuno lo vorrebbe in Piazzale Loreto, secondo te? Allora, l'albero della vita è di proprietà della città di Brescia, che ce l'ha donato. Okay? Quindi se lo potrebbero riprendere a Brescia? Se lo riprendono a Brescia e decideranno loro cosa farne. Tendenzialmente l'unico tema è che ha un costo notevole, non tanto lo spostarlo, certamente lo ha, ma proprio il singolo spettacolo. Qua ce ne sono una decina di giorno, perché e si illumina, notturni, suona, è una cosa molto un particolare per chi è, certo. Okay? Allora, questo costo di gestione è giustificato se ci sono, come ogni sera, 100-130 mila persone. Allora, pensare di fare un derby ogni sera in Piazzale Loreto è un po' difficile. Sì, un po' difficile. Allora, perché diciamo che doveva venire anche questa volta e non ci ha fatto compagnia? Perché deve sbrigarsi a tornare a Expo? Perché abbiamo in collegamento solo telefonico questa volta Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, ciao a tutti. Eccoti qua. Vabbè, allora per questa volta ti perdoniamo. Ma io ho fatto di più. Però voi siete nello fatto? Spazio, voi siete nello spazio Emilia Romagna e io sono invece in Emilia Romagna direttamente. Ah, vabbè, però devo dire che siamo un po' di parte, perché con questa scaletta del Sabato del Villaggio, con prima Paolini e poi te, la regione Emilia Romagna domina, però con te ci spostiamo in Emilia pura. Allora Enrico, ti abbiamo introdotto con questo I'm a cinematographer. Parliamo non di grande schermo, ma di grandi schermi questa volta per il nostro spazio delle tecnologie. Sì. Allora, perché prendendo spunto da Expo, chi è già stato a Expo, chi avrà la fortuna di andarci, ha visto o vedrà una incredibile una marea di proiettori video. Mai sì, vista così tanto. Giacomo poco fa, ce ne sono tantissimi. Sì, esatto. Proiettori video perché? Perché nei padiglioni vengono mostrati video, ci sono tante installazioni multimediali di vario genere, alcune veramente affascinanti, che fanno largo uso di proiezione video con tante soluzioni. Ci sono anche soluzioni con specchi che poi riflettono e fanno delle immagini particolari. Insomma, molta fantasia e molta tecnologia. Allora, prendendo spunto da questo e prendendo spunto anche da una nostra collega che non cito, ma che questa settimana mi diceva: io a casa non ho il televisore, ma ho il proiettore video e mi accontento del muro bianco. E quindi uno si domanda, ogni tanto qualcuno domanda anche scrivendomi a Radio 24, ma perché non parlate di proiettori video? Qualcuno dice che sono morti, abbandonati. No, in realtà ci sono ancora e vengono ancora utilizzati, ed è una buona soluzione per sostanzialmente avere un grandissimo schermo in casa a costi sostanzialmente abbordabili. Se noi abbordabile, questo è già molto interessante. Sì, se noi pensiamo che con un proiettore possiamo ottenere in casa uno schermo di 2-3 metri senza grandissimi problemi, se uno con volesse acquistare un televisore con una base, con una larghezza di 2-3 metri, dovrebbe comprare un 80 pollici, un 100 pollici. Allora, intanto cose che sul mercato sono abbastanza rare, stiamo parlando insomma di televisori molto importanti che costano anche un sacco di soldi, cioè parliamo di prodotti che costano a trovare proprio l'offertona 5, 6, 7 mila euro, 10 mila euro, insomma spendiamo un sacco di soldi. Con un proiettore video ce la potremo cavare con un intorno dei 1000 euro. Io dico sempre, non spendiamo poco e prendiamo prodotti di qualità per prodotti che ci durano anni, se noi poi andiamo certo, a fare non è come una... il telefonino che lo cambiamo spesso. Io il televisore l'ho comprato 4 anni fa e ce l'ho ancora come il primo giorno, non è una cosa che si cambia. Esatto, e speri di portarlo avanti ancora per qualche anno, naturalmente. Sì, il primo mi è durato 2 settimane perché mi hanno rubato in casa, il secondo invece spererei che mi durasse insomma, sì, un po' di più, ormai già, ha già battuto il record. Posso farti 2 domande molto pratiche? La prima certo. è, bisogna avere un salotto grande? Allora, prima condizione, avere una parete dove questo schermo si può esprimere, cioè almeno 2-3 metri di parete o libera. Se ci accontentiamo, poi i puristi si lamenterebbero, però diciamo, ce ne freghiamo. Allora, parete di con un muro completamente vuoto, bianco, possibilmente non lucido, il massimo sarebbe avere uno schermo che noi uno possiamo far scendere. Uno schermo di quelli che si srotolano, sì. Esatto, sì. Esatto. Sarebbe la soluzione migliore. E in quel caso, naturalmente, potremmo avere un quadro o qualsiasi altra cosa attaccata alla parete, addirittura anche un mobile, e davanti far scendere lo schermo. Però ci si può accontentare anche del muro bianco, però deve essere bianco, non è che deve essere azzurrino, giallino o rosa. Perché sennò e poi lo spazio per vedere un televisore, come avere un televisore grandissimo, non deve avere uno spazio piccolo perché sennò ce l'hai in faccia, insomma. Esatto, e esatto. Poi la seconda cosa che ti volevo chiedere è, devono esserci condizioni particolari di buio e luce, cioè si può vedere solo la sera col buio? Esatto, allora tendenzialmente bisogna avere una stanza abbastanza, cioè anche di giorno dobbiamo chiudere le finestre, cioè non far entrare tanta luce perché poi sennò la resa dello schermo praticamente è quasi nulla. Quindi questo è uno dei problemi. Poi ci sono altri problemi di installazione perché naturalmente dobbiamo tirare i cavi in una posizione arretrata rispetto allo schermo. Poi dirò che sul mercato sta arrivando una novità, però diciamo nella situazione classica uno deve mettere, che ne so, dietro al divano o sopra al divano, magari appeso al soffitto, il proiettore. Quindi bisogna tirare il cavo. Bisogna preoccuparsi dell'audio esterno, perché il proiettore non ha un suo audio, quindi o una barra certo. da mettere sotto lo schermo, oppure, che ne so, un altro impianto audio di diverso tipo. Poi bisogna spesso avere un decoder esterno, quindi o il decoder per il digitale terrestre o ad esempio il decoder di Mediaset Premium o Sky se uno è abbonato a questi servizi. Dello schermo abbiamo già detto, e anche quella è chiaramente una spesa di cui bisogna tener conto. Poi un'altra cosa che bisogna valutare è anche la durata della lampada. Allora, se il proiettore in sé può durare 10-20 anni, se lo usiamo ogni tanto, se lo usiamo insomma non una volta al mese, beh, ricordiamoci che poi la lampada si consuma e quindi difficilmente dura 10 anni. Però stiamo parlando di una certo. lampada, non è una cosa che costa 1000 euro, però sono tutte cose che vanno tenute in considerazione. Tutto ciò però per dire che se noi ogni tanto vogliamo avere uno spettacolo, magari abbiamo un televisore che utilizziamo, che ne so, di giorno in cucina per vedere il telegiornale o programmi poco affascinanti, che comunque non richiedono insomma grandissimi schermi, se ci vogliamo vedere un bel film con un grande schermo è sicuramente una soluzione da tenere in considerazione. La novità, Enrico, tra l'altro, sì, la novità, ecco. Sì, la novità a cui volevo accennare, stiamo parlando ancora di prodotti abbastanza nuovi che hanno prezzi molto molto importanti, ma se non proprio questo Natale, magari prossimo anno potremo vedere un abbassamento di prezzo. Proiettori che si chiamano ottiche a tiro corto, che possono essere posizionati a pochi centimetri, a poche decine di centimetri dallo schermo. In questo modo si riducono tutti i problemi che dicevo prima, cioè tirar cavi in mezzo alla stanza, collegare l'impianto audio, il decoder, bla bla bla. Tutto ciò è, che ne so, sul mobiletto che abbiamo di fronte dove poi vediamo lo schermo. Tutto molto più semplice. Però... molto più semplice. Allora Enrico, un attimo di pazienza, preparati l'app della settimana perché adesso è il momento di dare la linea al traffico. Ci risentiamo tra pochissimo. sabato del villaggio. Shines on TV e il sole splende sempre sulla TV e in questi giorni su Expo. Giacomo Biraghi ancora con noi allo spazio Emilia Romagna qui dentro Expo. Abbiamo parlato di mega schermi, io so che ce n'è uno straordinario a Padiglione Zero che trasmette, che proietta sempre questo corto. Tra l'altro io l'ho visto al Festival di Locarno, la Pastorale Cilentana di Mario Martone, sì. Che oggi casualmente era qui stamattina, e l'Expo è anche una manifestazione che ama i record, quindi il video di 16 minuti di Martone, che racconta di fatto dell'importanza della dieta mediterranea nel comune di Pollica, è venuto anche il sindaco oggi, quindi ci sono questi bambini che cercano il cibo, pastori, agricoltori, pescatori. Questo film, così ci colleghiamo anche alla tecnologia, è proiettato sul più grande schermo del mondo. Quindi è stato registrato in modo che possa essere distribuito su 9 diversi proiettori e, come sai bene, l'effetto wow di entrare nel Padiglione Zero con la grande libreria che rappresenta l'uomo e la sua intelligenza, certo, poi vedere dietro proiettato questo film, comincia a emozionarti nella visita dell'Expo. Grandissimo, bellissimo. Enrico, abbiamo un minuto per l'app della settimana, rapidissima. Allora, sapete che inizia, e tra l'altro oggi inizia anche l'avventura al campionato del mondo di rugby dell'Italia. Allora, vi consiglio la Official Rugby World Cup App, quindi l'applicazione che è solo per Android e per iOS, non c'è per Windows Phone, purtroppo, del rugby. Ma questo per dire che quando c'è una manifestazione sportiva, noi siamo appassionati di quello sport, 90 su 100 c'è l'app. E quindi può essere molto comodo, invece che andare a cercare il risultato su siti internet improbabili, ci abbiamo tutto sull'app, statistiche, risultati, fotografie, interviste, bla bla bla. Bello, bello, mi piace. Minuto, Enrico, la prossima settimana però ti aspetto in studio, non bigiare. Ci vediamo la prossima settimana in studio. 26. Ah, vedi, dai. Enrico, alla prossima in studio. Noi adesso invece dobbiamo parlare di cinema. Vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa? Lo avete notato anche voi? Sì, altro che. Qualcosa non va. Dobbiamo scoprire cos'è successo, ma ci servirà un aiuto. Invia segnale al marito. Che cosa ha detto? Come? Oh, spiacente, signore, non stavamo ascoltando. La spazzatura, la tavoletta del water alzata. Che vuoi, donna? Cosa? Riley, com'è andata a scuola? No, vogliamo scherzare? È per lui che abbiamo rinunciato a quel pilota brasiliano. Signore, ha appena alzato gli occhi al cielo. D'accordo, fare la voce grossa. Basta, vai in camera tua. Mano pesante lanciata, mano pesante lanciata. Sì! Ottimo lavoro, signori. Beh, questo è il trailer di Inside Out. Io l'ho visto, mi sono divertita da impazzire. Sono andata qualche sera fa al cinema e l'ho visto, c'era anche lui. Buongiorno Franco D'Assisti, l'ho visto che c'eri anche tu a vedere Inside Out. Assolutamente presente, non si può mancare l'appuntamento con Disney Pixar, soprattutto quando si tratta di un film così bello. Insomma, io come insomma, abbiamo detto anche, cioè, il solito capolavoro Inside Out, certo, sembra quasi una dichiarazione di stanchezza, invece no, è una dichiarazione di sorpresa, perché è incredibile. Io lo consiglierei come a bambini, genitori, cani, a tutti, 0-99 anni, assolutamente, perché poi ha tanti di quei piani di lettura, come spesso accade con i film Pixar, però in questo ancora più semplificato e semplice, quello per i bambini, ma ancora più denso, più pieno di sfaccettature che vanno dalla psicanalisi anche alla cultura, diciamo, libertaria della fine degli anni 60 eccetera, per gli adulti, quindi è veramente un film mostruoso per la sua semplicità, la sua capacità di tenere il tutto il pubblico, e tra l'altro con una durata percepita che è nettamente inferiore a quella reale, che secondo me è sempre un buon registro per sapere che una sceneggiatura è azzeccata. E qui siamo di fronte a un film che tra l'altro sta già macinando in America $350 milioni, qua è partito molto bene in Italia, anche se i Minions tengono duro, però insomma evidentemente Inside Out sarà prima in classifica lunedì, quando stileremo le classifiche del box office. A me ha colpito tantissimo, oltre appunto questa storia, questi tre piani di lettura che ci sono, la realtà, quello che sta dentro la testa e il collegamento fra i due, ma mi ha fatto veramente impazzire, a parte alcuni personaggi come quello di Tristezza, che è da Oscar secondo me, perché è un personaggio sciamannato e straordinario, però anche l'architettura, come i creatori, Pete Docter in testa, ma anche tutti i creatori di questo film, abbiano saputo immaginare un'architettura del nostro cervello, di dove i ricordi Franco, a forma di sfera. Il nostro tempo è avarissimo, quindi ti chiedo subito un altro consiglio, perché se no non ce la facciamo. Dacci un altro consiglio imperdibile per il fine settimana. Beh, insomma, di imperdibile adesso francamente dopo Inside Out non c'è moltissimo, certo. però sicuramente un consiglio, per esempio due film che arrivano da Venezia, due film italiani, L'attesa di Piero Messina e Per amor vostro di Giuseppe Gaudino. In Per amor vostro c'è un Agolino che si è presa la Coppa Volpi 30 anni dopo la prima, a dimostrare un arco di una carriera straordinaria di un'attrice fantastica, dall'altra parte un'altra grande attrice, quindi quasi una guerra fra attrici, con Juliette Binoche diretta da Piero Messina, molto bella, molto sofferente, molto intensa anche lei. Ecco, se volete andare sul cinema d'autore italiano, L'attesa è Per amor vostro. Se siete una famiglia e volete stare lì, pensare ma anche divertirvi e ridere, e magari anche un po' commuovervi e piangere, c'è Inside Out. Se invece siete degli appassionati di cinema, rimanete poi su Radio 24, perché dalle 18 c'è La rosa purpurea e quindi avremo un po' più tempo a disposizione. I dettagli. Tempo tiranno questa settimana. Grazie a Franco D'Assisi, quindi appuntamento dopo il GR delle 18 con La rosa purpurea. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Franco. Io saluto anche Giacomo Biraghi, però mi hai segnalato una cosa che vorrei segnalare. Sì, a proposito di grandi donne. Secondo me è molto da Sabato del Villaggio, è molto da Expo, che alla fine è un evento pop. Raffaella Carrà, il 25 settembre sono è già qui in piedi Expo. Io. No, già sono, adesso la balliamo. Noi ci salutiamo perché tra poco c'è il GR24. Ciao. Il 25 c'è Raffaella Carrà Expo, ragazzi. Io sono già qua. Allora, Giacomo, noi però speriamo di tornare ancora a Expo, così ti rapisco sempre per venire. Siete benvenuti, mi raccomando, entro il 31 ottobre. Entro il 31 ottobre. Grazie a Giacomo Biraghi, il maggiore esperto sulla faccia di Expo. Noi ci ritroviamo invece dopo il GR delle 16, perché abbiamo ancora un'ora del Sabato del Villaggio insieme. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Da Matt Groening, il geniale inventore dei Simpson, fino al grande artista Keith Haring, passando attraverso storie tormentate come Francesco Nuti e Sinéad O'Connor, fino a Aceto, l'uomo del palio. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24. Vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Il Sabato del Villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Questo è un pomeriggio speciale perché stiamo parlando tanto di Expo, perché siamo nello spazio Emilia Romagna, proprio accanto all'albero della vita a Expo. Una folla immensa, sono contenta di essere qui questo pomeriggio. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di tecnologia, di videoproiettori, di cocktail, abbiamo parlato di Expo. Vi siete persi la prima ora, che però potrete recuperare con il podcast al sito radio24.it, ma nella seconda ora parleremo di libri, ovviamente. Ricominceremo a parlare di nuove tendenze nel nostro Sabato del Villaggio, poi avremo un ospite straordinario in studio, Franco Mussida, che questa sera sarà qui a Expo, quindi noi lo rapiamo un po' prima, ve lo portiamo qui nel nostro spazio di Radio 24. altro. E parleremo anche di una grande, parleremo di Amy Winehouse, perché si sta parlando tantissimo di lei e cercheremo di capire questo grande fenomeno che non ci abbandona mai. Ma prima parliamo ancora di Expo e parliamo di Milano insieme. Milano, Expo e cinema. Io ho corso un po' su tutte le piste d'Europa, ma la pista del Vigorelli è la migliore, ovviamente la migliore. La migliore non si sa nemmeno perché se ne possono costruire tante, tutte sullo stesso disegno, e solo una riesce, sono di quelle cose che non si sa. Comunque il fatto è che l'abbiamo noi la migliore. Questo è uno dei corti in un film che a me è piaciuto molto. Era stato presentato alle giornate degli autori Venice Day, alla 72esima mostra del cinema di Venezia. Si intitola Milano 2015 e racconta proprio la Milano di oggi, la Milano che sta vivendo Expo, ma non solo. Ispirato al documentario che girò Ermanno Olmi, Milano 83, ci fa capire come è diventata Milano oggi. Tanti i registi, che non sono tutti registi di mestiere, che hanno dedicato questi loro pensieri cinematografici a Milano. C'è Giorgio Diritti, c'è Silvio Soldini, c'è Cristiana Capotondi, che ne parlò proprio insieme a noi in diretta nella puntata che facemmo da Expo il 4 di luglio. Tra tutti questi documentaristi, a parlare del velodromo Vigorelli e di quello che ha rappresentato e rappresenta per Milano, ma non solo, c'è Walter Veltroni. Ma guardi, io devo dirle, anche quando una delle ultime cose che ho fatto da sindaco di Roma fu venire su invito di Letizia Moratti a Milano per aiutare la promozione di Expo, io ho sempre considerato la guerra tra Roma e Milano una fesseria, un'assoluta fesseria, una delle tante fesserie nelle quali questo paese appena si può dividere in Guelfi e Ghibellini se lo fa. E invece a me piacciono Roma e Milano, naturalmente Roma è la mia città, è quella alla quale ho dedicato una parte della mia vita, però Milano è una città che sempre esercitato su di me un grande fascino, non solo per la sua vita culturale, ma anche proprio per questa doppia identità, cioè di essere una città costantemente proiettata nel futuro, come diceva Lucio, no? Milano vicino all'Europa, e al tempo stesso però essere una città che ha il senso della storia dentro di sé. Sono due dimensioni più affascinanti. Riallacciandosi a questo, è inevitabile chiedere come in tanti dicono in questo periodo storico Milano sta rinascendo, Roma invece soffre, arranca. Lei cosa ne pensa? Guardi, Roma ha avuto dei momenti nei quali si diceva la stessa cosa e si diceva il contrario di Milano, momenti neanche lontani, per cui insomma sono delle fasi nelle quali per una serie di circostanze e anche per ragioni generali le città possono avere tempi di crescita diversi l'uno dall'altro, però se noi guardiamo dall'alto il panorama del paese non possiamo che constatare che in fondo, tra tante contraddizioni, le città sono state, forse insieme al sistema di trasporti, in particolare quello ferroviario, tra le cose sono cambiate più rapidamente. Il ciclismo preso quasi a simbolo di un'epoca e di una città. Beh sì, tra il ciclismo e Milano c'è un legame molto stretto, no? Appunto, dalla Sei Giorni al Vigorelli, alle tante occasioni, Giro di Lombardia, insomma è una città molto ciclistica, però più che il ciclismo, che comunque è un pezzo dell'identità italiana, io sono rimasto affascinato da quel luogo lì, da quel legno, da quell'odore, da quel senso della storia, anche un po' da quei vuoti, no, che ci sono. Ma Walter Veltroni ci vuole sempre fare un po' commuovere nei documentari, perché la lacrimuccia ci scende sempre. Ma sa, ognuno racconta le cose col suo stile, col suo carattere, col suo modo di essere, lo so, a me vengono così, ecco. E questo era Walter Veltroni, che è autore di uno dei documentari in questo Milano 2015, che adesso sta girando un po' di sale, ma che il 30 ottobre sarà in onda su Sky Cinema, quindi si potrà vedere anche in TV. Abbiamo detto Giorgio Diritti, Silvio Soldini, Cristiana Capotondi, Walter Veltroni, ma a dare un suo sguardo molto particolare sulla sua Milano è anche un grandissimo artista, uno degli artisti più noti al mondo, che però non fa il regista. Alla sua prima esperienza con la regia, Roberto Bolle. È stata un'idea di Cristiana Mainardi e Lionello Cerri, che hanno prodotto il documentario, si sono trovati d'accordo che il mio la mia parte, il mio documentario fosse girato, fosse sul teatro, sulla scala, sugli ambienti scaligeri che comunque sono non solo la scala ma anche l'Ansaldo, la scuola di ballo, Pero, dove vengono stoccate le scenografie, quindi diversi ambienti a Milano che creano, poi lavorano tutti per la creazione di quella magia del teatro, che dello spettacolo che poi il pubblico vede. E il trovarmi in un ambiente così familiare mi ha messo molto a mio agio, quindi mi sono sentito bene, mi sono sentito, ho guidato le camere all'interno del teatro perché ne conoscevo le dinamiche, conoscevo le persone ovviamente perché sono cresciuto, è come se fosse casa mia, quindi è stato un lavoro facilitato da questo. Milano è una città che spesso realizza i sogni di chi arriva dalla provincia, anche se la provincia non è tanto lontana. Io ho letto molto affetto quando mostri e racconti i giovani, i ragazzi, i bambini, Spinasetti, cioè che effetto ti ha fatto? Che cosa leggi nei loro occhi? Sì, è proprio così, molto affetto e molta vicinanza, proprio perché anch'io ero così, cioè arrivavo dalla provincia, arrivavo a Milano con grandi sogni e ti avvicini veramente, entri alla scala con grande passione, con grandi sogni e con grandi speranze sul tuo futuro. È la cosa veramente bella che Milano ti può dare, che la scala ti può dare, è questa possibilità di realizzare i tuoi sogni, ed è secondo me la città che ha un respiro internazionale maggiore di tutte quelle italiane, e questa capacità di saper esaltare il talento e creare l'eccellenza è quella che ho voluto dipingere. Fare proprio una segnalazione in merito alla scala, perché cosa succederà il 25 settembre alle 21 a Palazzo Edison a Milano, in Foro Bonaparte 31, si terrà il concerto dell'Accademia Teatro alla Scala. Proprio l'Accademia Teatro alla Scala è un recital lirico con i solisti dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Scaligero. Io non manco assolutamente, il 25 settembre alle 21 a Palazzo Edison. È il momento però di dare la linea alla viabilità, tra poco parleremo di libri, non abbandonate il sabato del villaggio, tra poco saremo ancora insieme. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta il sabato del villaggio. Spagnola con questa musica, perché ho detto parliamo di libri, andiamo in Spagna, parliamo di libri spagnoli, non lo so, intanto andiamo a scovare in Spagna la nostra super esperta di libri, Alessandra Tedesco. Alessandra, cosa ci fai in Spagna? Ma sei in Spagna davvero? Sì, sono in Spagna davvero, Marta. Non eccola qua. In Spagna dell'Expo, sono in Spagna sul No, in Spagna vera. In un piccolo paese che si chiama Elizondo ed è nel nord della Spagna, Navarra, Paesi Baschi per intenderci, perché sono nei luoghi dove è ambientata una trilogia thriller spagnola. Qui in Spagna ha avuto un successo grandioso, più di 700.000 copie vendute, che sta per arrivare in Italia, dove si sta già iniziando a parlare di questa trilogia. Ah, beh, quindi è il nostro prossimo fenomeno, cioè ce la segniamo già perché sarà l'argomento fenomeno di cui dovremo. Quindi, se la sera. Anticipo, se questa sera andrete a vedere perdonami Alessandra, perché essendoci un po' di ritardo rischio di sovrappormi a te, raccontaci bene. Allora, il primo volume che viene pubblicato in Italia si intitola Il guardiano invisibile, Dolores Redondo e la scrittrice, pubblicato da Salani. Ti dico che in questo primo volume vengono uccise delle ragazzine, delle adolescenti, quindi da un serial killer, lo stesso modus operandi, che lascia un pasticcino sul corpo delle vittime. Io te lo porterò questo pasticcino, naturalmente tipico della Navarra, per fartelo assaggiare. Quindi lo consigliamo già per quando uscirà ai super appassionati di gialli, anche un po' così tosti, e so già che piacerà molto, quindi ce lo segniamo già, soprattutto se andrete a fare il cocktail questa sera, il cocktail di cui parlavamo prima con Davide Paolini, già sapete che l'argomento di discussione potrà essere ho sentito che c'è un nuovo giallo spagnolo da scoprire. Alessandra, per noi ti abbiamo abbandonato la scorsa settimana col Campiello, a Venezia ti abbiamo abbandonato. Eh sì, infatti uno dei libri di cui si sta parlando molto in questi giorni, in questa settimana in Italia, è il libro che ha vinto il premio Campiello 2015, che si intitola L'ultimo arrivato. Sembra paradossale, si intitola L'ultimo arrivato, è arrivato per primo, ma è così. L'ha scritto Marco Balsano, pubblicato da Sellerio. È stata una vittoria, diciamo una stravittoria, perché l'hanno votato su una giuria popolare di 300 persone, circa 117 persone, quindi più di 40 voti di distanza dal secondo arrivato. È un romanzo molto bello, ne avevamo già parlato a Radio 24, avevamo fatto già sentire le parole di Marco Balsano. È un romanzo che parla della storia di un ragazzino, Ninetto, che a 9 anni, nel 1959, emigra da un piccolo paesino della Sicilia nella Milano, quindi nel nord. Ed è una storia che sembra veramente lontana nel tempo, sembra che parliamo dell'Ottocento, invece stiamo parlando del 1959, quando l'emigrazione minorile in Italia era decisamente un fenomeno influente. Infatti è un libro che consiglierei sicuramente a chi ha voglia di una storia emozionante, ma anche soprattutto alle giovani generazioni che non credono che solo veramente fino a 50-60 anni fa anche in Italia i bambini italiani emigravano per povertà. Noi ce l'abbiamo, un'intervista che ci hai lasciato di questo vincitore, Alessandra, vero? Ce l'hai lasciata qualche giorno fa, di cosa avete parlato? Beh, naturalmente l'abbiamo reintervistato dopo la vittoria per capire un po', insomma, anche come era nata l'idea di raccontare una storia di emigrazione minorile di cui in Italia veramente si parla poco. Sentiamo allora Marco Balsano. Mi stava a cuore ricostruire uno scenario, delle dinamiche, una forma mentis assolutamente attendibili. Questa era la scommessa, e poi innestare invece su questo scenario una vita con tutti i suoi limiti, con tutte le sue singolarità, le sue paure e anche le sue meraviglie. La vita di Ninetto, che è un personaggio di fantasia, rispecchia la media di letteratura, perché credo che il realismo in letteratura serva a complicare ulteriormente la realtà, a problematizzarla in maniera aggiuntiva e non a riferirla manualisticamente da storico, che non è il mio lavoro. Tu stesso hai ironizzato sul fatto che il tuo libro si intitola L'ultimo arrivato e alla fine sei arrivato per primo, insomma. Un bellissimo ossimoro. Secondo te che cos'è che ha colpito il pubblico della giuria popolare? È sempre difficile dirlo, è una domanda a cui è difficile rispondere. Io credo che io scrissi questo libro tutto in terza persona e sembrava un Oliver Twist in ritardo di 200 anni e quindi ho dovuto riscriverlo tutto in prima. Le cose sono andate bene quando ho trovato la voce del bambino e la prima persona, perché mi permetteva di saltare da un episodio all'altro e soprattutto di avere una voce che sdrammatizzasse. E quindi io credo che forse questo libro magari è piaciuto perché il bambino è poco impegnato a pensare ed è tutto preso dal vivere, e quindi si passa a fior d'acqua e con una certa ironia su momenti drammatici, e viceversa la drammaticità ogni tanto ti sorprende quando avevi appena finito di sorridere. Non so come mi sia venuto in mente di recuperare il rondò veneziano. Non lo sentivo da decenni, ma mi è venuta questa cosa. Il rondò veneziano, vabbè, il campiello ci stava, mi faceva sorridere l'idea del campiello a Venezia e del rondò veneziano. Alessandra Tedesco, intanto grazie per questa bellissima intervista che ci hai fatto a Venezia, proprio fresca fresca dopo il campiello. I consigli così, tutti quelli che sono a casa o in macchina a prendere appunti, non ovviamente mentre guidano, sanno cosa bisogna leggere in questo periodo. I consigli di Alessandra Tedesco. Allora, se siete appassionati di misteri e di mistero nel mistero, non dovete perdere Imprimatur. È un romanzo scritto da una coppia italiana, Rita Monaldi e Francesco Sorti, appena ripubblicato da Baldini e Castoldi. In realtà era un libro, un romanzo che era uscito alcuni anni fa per Mondadori, poi era sparito dalla circolazione. Perché? Perché, diciamo, andava a stuzzicare dei segreti del Vaticano, quindi c'è stata, come dire, una sorta di censura, almeno così sostengono gli autori, nei confronti del loro romanzo. Poi sono diventati sette addirittura i romanzi, e all'estero, nel resto dell'Europa, hanno avuto un successo incredibile, hanno venduto in oltre 60 paesi. Il protagonista è un abate, Atto Melani, che in questo primo volume, Imprimatur, deve indagare sul fatto che in un locale un uomo è morto, non si sa se è stato avvelenato o se è colpa della peste. Da qui, durante le indagini, finirà per indagare appunto anche sul Vaticano, ed è un caso di cui parlò per esempio anche il nostro Giuseppe Cruciani qualche anno fa, perché era veramente un mistero il fatto che questo libro fosse sparito dalla circolazione. Quindi, per gli amanti del mistero e dei thriller storici, Imprimatur della coppia Monaldi-Sorti. Io sono curiosa, chissà se è vero tutto questo mistero. Vabbè, a questo punto leggiamo e scopriamo di più del mistero. Altro consiglio, Alessandra? Altro consiglio, vado oggi, sono tutta sul thriller, non so, evidentemente questa. No, oggi per gli appassionati di thriller, oggi ti ha appassionato, beh, va bene così. Beh, sono sui luoghi dove sono ambientati questi delitti efferati, e quindi è un libro di cui si sta parlando, il seguito della saga Millennium di Stieg Larsson, lo scrittore che era morto alcuni anni fa, era l'autore di il primo romanzo l'aveva scritto 10 anni fa, Uomini che odiano le donne. Quindi ci sono, come dire, una serie di fan appassionati a questa saga. Lo scrittore è morto, però adesso il libro è stato scritto, è stato preso, diciamo, quel po' che aveva già scritto Larsson, è stato riscritto da un tale David Lagercrantz e pubblicato sempre da Marsilio. Torna dunque il personaggio di Lisbeth Salander, che era veramente amato dai fan di questa saga. Certo, qualcuno potrà storcere il naso perché dice, beh, non è proprio Larsson che l'ha scritto, ma se pensate che 007, dopo la morte di Ian Fleming, è stato scritto per il personaggio, i romanzi con il suo protagonista, da tanti altri scrittori, insomma, io gli darei fiducia, perché comunque si è attenuto grosso modo allo stile di Stieg Larsson. Quindi quello che non uccide è sicuramente consigliato agli amanti del thriller, proprio quello pulp, proprio dove ci sono le scene crude. Ah, non sono io. Alessandra, allora la prossima settimana ci dovrai almeno segnalare dei libri per ragazzi, dei libri romantici, perché questa volta sei stata particolarmente sanguinolenta. Però devo ammetterlo. Non lo so cos'è successo a Alessandra Tedesco, che le ha preso sta botta di thriller questo sabato del villaggio. Però devo chiederti invece il consiglio radiofonico per eccellenza per chi ama i libri, cioè quando ascoltiamo Il cacciatore di libri, Alessandra. Il cacciatore, come sempre, ogni sabato alle 6:30 del mattino per i mattinieri. Stasera alle 22, tra l'altro, potrete sentire l'intervista integrale al vincitore del campiello Marco Balsano, e poi ad un altro scrittore, Tito Faraci, che è un famoso fumettista di Topolino, di Landog, invece in questo caso parla di un romanzo, e lo potete ascoltare alle 22, come sempre, poi in podcast. Straordinario, radio24.it per tutti i vostri podcast, anche per chi si fosse perso la prima ora del sabato del villaggio. Grazie Alessandra, ti aspetto in studio la prossima volta, non andare in altri luoghi di gialli perché sennò mi diventi troppo pulp. Ciao Alessandra. No, ciao, però ti porterò il pasticcino. Ah sì, il pasticcino dell'assassino. Grazie Alessandra, a presto. Ciao Marta, ciao. Ciao Alessandra, noi ci ritroviamo tra poco per l'ultima mezz'ora del Sabato del Villaggio, sempre qui dallo spazio Emilia Romagna, dentro Expo, accanto all'Albero della Vita. Parleremo di musica nella prossima ora, perché incontreremo un grande fenomeno e poi avremo una grande amica che ci torna a trovare per telefono per raccontarci di un altro grande fenomeno del quale dobbiamo sapere tutto, e torneremo anche a occuparci di consumi e tendenze. Ma tutto questo tra poco, dopo una pausa ancora con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E questa è l'ultima mezz'ora del nostro Sabato del Villaggio. Poi ci sarà l'ora di RadioTube, non confondetevi, noi saremo insieme fino alle 18, ma è l'ultima mezz'ora del nostro spazio dedicato alle cose belle della vita, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nelle nuove tendenze ed in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri, i grandi fenomeni. Qualcuno si sarà detto: ma non hanno ancora chiamato Maria Luisa Pezzali, non c'è più lo spazio delle nuove tendenze? No, c'è Maria Luisa Pezzali. Sali, eccola, ce l'abbiamo collegata al telefono. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Eccola, ci sono, stiamo scaldando. Abbiamo prolungato. Sì, abbiamo prolungato le vacanze di un paio di settimane, però ci sei, anche perché non mi scappi, perché lo diciamo agli ascoltatori, sei seduta accanto a me come scrivania in radio, quindi non mi puoi scappare. Maria Luisa, hai già qualche anticipazione di quello che ci sarà come nuove tendenze? Così dalla prossima settimana in studio mi racconterai tutto settimana per settimana. Su allora, cosa dobbiamo Marta, tenere le antennine drizzate? Allora, giusto un'anticipazione, non sveliamo, tengo un po' d'attesa a questo punto, esatto, per quando sarò in studio lì accanto a te. La lista di questi mesi è veramente lunghissima in tema di consumi, appunto, nuove tendenze, quindi avremo modo di parlare, come sempre, di prodotti e servizi, ma soprattutto dei nuovi modi di scoprirli, di acquistarli, di usarli, quindi spazio alle mode, ai fenomeni del momento. Parleremo molto, come nei mesi scorsi, della sharing economy, quindi l'economia della condivisione, Airbnb e simili, per intenderci, che sta sostituendo in molti casi, in molti servizi, in molti prodotti, il possesso con l'accesso, e quindi ci fa scoprire nuovi modi di viaggiare, di spostarci in città, di mangiare, con tutto il fenomeno del social eating. E poi bisogna pensare che fenomeni come questi stanno anche rendendo, Marta, molto accessibile il mondo del lusso, perché tra le altre cose, quest'estate c'è stato il boom di una piattaforma che è l'equivalente di Airbnb, però per le barche a vela, non male. Beh, straordinario, questo mi piace moltissimo. Siamo un po' fuori stagione, però adesso magari ci sono posti in cui l'estate si prolunga ad altre latitudini, cominciamo già a prendere appunti. Però non lo facciamo questa settimana. Maria Luisa, ci ritroviamo nel nostro solito spazio all'interno del Sabato del Villaggio dal prossimo sabato. Ti chiedo però l'appuntamento con Essere Avere, perché ci ritroviamo anche con Essere Avere la domenica. Sì, Essere Avere, che ha cambiato orario, quindi appuntatevelo subito alle 22, dopo il GR delle 22. I contenuti invece sono sempre più ricchi, ti dirò ancora, Marta, tante novità anche nell'intrattenimento, i giochi di fuga dal vivo, le escape room, e poi gli hipster stanno per finire, lo sapevi, l'avevamo già detto, le barbe, basta. Cioè sì, tolgono, esatto, sì, rasano tutti, basta barbe, quindi non possono più barare, devono essere belli per forza. Che bello, no, perché che poi ci sono i sostituti degli hipster, ci sono i sostituti, si chiamano Yaki, ma vi dico solo questo, non vi dico nulla di più. Ne parleremo. Allora, l'appuntamento, l'orario preciso, Maria Luisa, ce l'abbiamo? Sì, alle 22. 22. Grazie mille Maria Luisa Pezzali. Allora, dalla prossima settimana in studio ancora nel Sabato del Villaggio per parlare di nuove tendenze, di moda e tutto di quello di cui dobbiamo sapere sotto questo punto di vista. Grazie Maria Luisa, presto. Ciao Marta, un saluto a tutti. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Bella, questo pezzo nuovo deve essere, perché mi sembra molto moderno, una cosa nuova, di un gruppo nuovo. No, sto scherzando. Quando arriva settembre, tutti dicono, beh, le impressioni di settembre e questa sera a Expo, quindi vi do subito un consiglio per tutti coloro, e secondo me sono tanti, perché in questo momento sono le 16.36, ci sono tutti quelli che stanno arrivando per la serata di Expo. Per tutti coloro che verranno qui a Expo questa sera, allora vi do l'appuntamento per bene, perché ce l'ho qui davanti. 19.30, Teatro della Terra, Parco della Biodiversità, qui al Padiglione Italia a Expo. Il CPM Music Institute, in collaborazione con Econatura, si presentano la musica come nutrimento naturale dell'anima, come dicono gli americani, starring, il protagonista è Franco Mussida, che noi abbiamo qui nella postazione di Radio 24, e io sono un po' emozionata. Buonasera Franco Mussida. Buonasera a tutti voi, buonasera. Beh ragazzi, impressione di settembre è una maledizione, perché quando parte settembre sempre qualcuno tira fuori impressione di settembre, che noia, sempre. Vabbè, per me è una bella notizia ogni volta, nel senso che questa è una canzone che ha passato il testimone a tanti, se la sono passata di mano in tanti, per certo, certi versi, e quindi per me è sempre una gioia, bene o male ho scritto la musica di questa canzone, il fatto che se la sia cantata Battiato, Renga, decine di gruppi, insomma vuol dire che in qualche modo di generazione in generazione quell'emozione nata tanti anni fa, quindi stiamo parlando del 1970, è arrivata ancora oggi e viene respirata ancora oggi con naturalezza. Tra poco ti chiedo qualcosa che ha a che fare col 71, però ti chiedo questa sera allora cosa succederà alle 19.30 qui a Expo, per dare il consiglio. Allora, questa sera in Expo ci sarà l'occasione di parlare di un tema meraviglioso, che è quello di che cosa succede dietro il grande spettacolo della natura, per certi versi. No, qui se guardo intorno c'è uno spettacolo, è uno spettacolo nello spettacolo, però tutto questo in qualche modo si vede, noi siamo agganciati, sudiamo, cioè, oggi è caldo, cioè, c'è un sacco di gente. In realtà stiamo parlando di qualche cosa di veramente straordinario, che completa l'esistenza di ogni essere umano e che trasforma il cibo in uomo, e quindi qualche cosa che noi facciamo quotidianamente, e la musica da questo punto di vista è un altro degli elementi che ci trasforma e che ci mette nella condizione di educare i nostri sentimenti. Oggi come non mai è davvero importante e fondamentale che questa parte essenziale della struttura umana venga in qualche modo educata. Questi sono tempi difficili, duri, incasinati, e faremo un parallelismo tra la figura del musicista e quella del contadino. Spiegami bene, musicista e contadino cosa hanno in comune? Il mondo vibrante. Cioè vuol dire che entrambi sono figure, soprattutto i contadini di oggi, che sono quelli che in qualche modo hanno una maggiore attenzione al loro rapporto con la terra, che coltivano provando ad essere uno con il mondo, no? Provando ad essere un'unità con il pianeta. Si rendono conto i contadini di oggi che tanto più questo elemento anche della qualità, della bellezza, anche se vuoi, ma soprattutto della qualità degli alimenti, è importante e determinante per la salute non soltanto fisica delle persone. La stessa cosa dovrebbe accadere per il musicista, cioè il musicista dovrebbe un pochino occuparsi diciamo un po' di più di quello che è musica come elemento di alimentazione, e un po' meno come si può dire, di usarla come si usa l'acqua per divertirsi e per farsi dei grandi bagni senza curarsi di quanto poi getta via, per certi versi, no? Quindi queste due figure sono due figure che oggi sono molto impegnate. Del resto il vero mestiere del musicista è quello di fare il meteorologo dell'umore. Posso usare anch'io qualche volta, è bellissima, Franco. Però questo è il mio mestiere, cioè in effetti io che cosa faccio? tutto l'affetto che bene o male mi viene restituito sempre anche con una certa meraviglia da parte mia, dalle persone che ascoltano la mia musica, che hanno ascoltato la musica della PFM, che mi hanno visto in concerto, non è nient'altro che la manifestazione del fatto che tutte le persone mi conoscono intimamente, perché per il musicista realizzare un'opera significa rivestire di suono il suo mondo interiore, e quindi mi conoscono un po' di più e sono sempre magari un po' imbarazzati per certi versi, proprio perché sentono e percepiscono questo elemento della sensibilità comune. È un territorio da coltivare, è un territorio da proteggere, ed è un territorio di cui occorre parlare magari con un po' più di tempo. Quindi alle 19.30 noi siamo qui a Expo, Teatro della Terra, Parco della Biodiversità. Io però voglio citarti, ti inchiodo le tue responsabilità perché ho davanti a me, l'ho studiato, vedi che ho tutti i post-it, poi l'ho posto su Twitter. Franco Mussida, La musica ignorata, che è un bel libro di Schira, pesantissimo, che ho qui davanti a me. Allora, ti faccio questa domanda: noi al Sabato del Villaggio parliamo, diamo un sacco di consigli, ma parliamo anche di nuove tendenze, e paradossalmente una delle tendenze della musica non è il tanto e il non solo cercare novità, ma affezionarsi sempre di più ai grandi della musica, dai Rolling Stones, certo. Sono quelli che riempiono ancora gli stadi, gli AC/DC. Tu a un certo punto La musica ignorata condanni quest'idea di musica vista come solo prodotto da creare e usare senza farsi troppe domande, un'idea di musica sterile come un frutto senza semi, e quindi torniamo ancora all'agricoltura, sì. Di poca forza vitale, bello da vedere ma in sapore e in odore. Quindi secondo te questo grande fenomeno del ritorno dei grandi vecchi, lo diciamo tra mille virgolette, perché dire vecchi ai Rolling Stones o agli AC/DC è veramente un sacrilegio, però che siano ancora questi grandi a riempire gli stadi e a vendere i dischi, è perché questa musica è più vera? Il fenomeno dei grandi vecchi che ancora conquistano il pubblico è perché è più vera e quella più nuova è un prodotto? Bella domanda. Allora, vediamo se riesco a essere sintetico. Tutti quelli che hanno inventato una qualche cosa di molto importante, che è andato leggermente al di là delle tendenze dell'attualità, rimane nell'immaginario affettivo, collettivo, come un artista che è stato in grado di dare delle indicazioni al di là della quotidianità, quindi al di là della cronaca. Tu hai citato dei gruppi, hai citato dei nomi, ma io posso citarti Jimi Hendrix, posso citarti i Beatles. Tanto di Jimi Hendrix c'è un anniversario proprio, certo, in questi. Poco, sì, ecco. Sì. Posso citare la PFM, ma la cito io, tu non puoi. Non posso. Cioè, sono artisti che in qualche modo sono riusciti in un momento particolare della loro storia di fare una fotografia non di ciò che avevano intorno, ma di dare delle visioni che sono andate un po' più in là. Sono artisti di rottura, cioè sono persone che non si agganciano alla realtà di oggi, dell'oggi di oggi oppure di ieri. Cioè non fanno cronaca, ma immaginano di dare contributi e visioni, e da questo punto di vista questi elementi rimangono come delle pietre miliari, certo. Rimangono ricordate. Non vengono ricordati tutti quelli che utilizzano il suono e la musica per fare cronaca, cioè non c'è niente da fare, cioè, ma questa è la storia che lo dice. Vero, sono del tutto d'accordo. E allora, quindi questi sono, diciamo, i frutti magari di un uso, dell'usare ciò che la musica ti mette a disposizione. Tu prendi ritmo, armonia, timbro, melodia e intervalli, questo è, diciamo, l'humus per costruire una qualsiasi musica, così come la terra è fatta di rocce, è fatta di humus, è fatta di acqua, è fatta di aria ed è fatta di sabbia. Cioè tu metti insieme tutte queste cose, se dentro c'è un seme che in qualche modo fa germogliare una pianta che tu magari non hai mai visto, o un colore che non hai mai percepito, questa roba viene ricordata. Tout se tient, abbiamo detto musica e agricoltura, tout se tient, come dicono i francesi, tutto torna. Ci risentiamo tra pochissimo perché abbiamo le indicazioni per chi sta viaggiando, perché ci sono anche quelli che stanno arrivando adesso a Expo per venirti a sentire alle 7:30. Certo. Allora ci colleghiamo con la nostra redazione della viabilità e ci ritroviamo ancora tra poco col Sabato del Villaggio. Il sabato del villaggio. Starsene a casa, a che fare con quello che ciondola. Suonare suonare, 1980, PFM in studio nello spazio Emilia Romagna qui dentro Expo 2015 accanto all'Albero della Vita, ancora per pochi minuti perché poi lo dobbiamo lasciare andare a suonare alle 7:30. Suonare suonare, 1980, PFM, noi abbiamo Franco Mussida. Franco, adesso per la PFM tempo hai detto che non ce n'è più perché hai troppe cose da fare, cioè quante cose fai? Una delle cose fondamentali che fai, e io lo posso dire perché io ci sono stata nella tua scuola, ci sono stata al CPM, è insegnare ai ragazzi, che per te è una cosa importantissima. Cosa ti arricchisce insegnare ai ragazzi? Beh, intanto io sono 30 anni, CPM Music Institute ha 30 anni quest'anno, quindi sono 30 anni che io lavoro e sono a contatto e incontro, quindi una generazione che va dai 16 ai 24 anni. Quindi ho tutti gli anni una sorta di nuovi incontri e quindi di nuove possibilità di stare con ragazzi che vedono, che vivono la musica come una grande speranza per il loro futuro. Con ragazzi che hanno la voglia di poter raccontarsi, di raccontare, di cercare, di curiosare in questo mondo meraviglioso che è il mondo delle emozioni, senza gli strumenti e senza lo studio degli strumenti, ma anche di tanti mestieri, perché il CPM Music Institute oggi come oggi è davvero una grande casa dei mestieri del suono e della musica. Si formano i tecnici d'audio, si formano gli arrangiatori, quelli che lavorano nel digital performance, cioè non solo bassisti, batteristi, chitarristi, cantanti. È un mondo straordinario che gira attorno a questo nucleo che è appunto il mondo delle emozioni, la struttura affettiva degli individui. Per cui noi come CPM abbiamo una cosa che ci rende anche molto orgogliosi: le centinaia, centinaia e centinaia di ragazzi che non solo magari sono usciti e hanno conquistato le luci della ribalta, da Enzo Robino a Chiara Galeazzo a tanti nomi che conosciamo, persone che hanno abbandonato i loro paesi e sono venuti in qualche modo a studiare da noi, ma soprattutto centinaia e centinaia di ragazzi che riescono a campare e a vivere di musica. Allora, e noi siamo felici. Allora, qualche volta, Franco, vieni a darci qualche consiglio su come si studia e ci si avvicina alla musica. Quando voi volete, perché noi di consiglio in consiglio, di tendenza in tendenza, mi piacerebbe sapere cosa pensi. E adesso abbiamo anche un'amica al telefono per raccontarci di questa grande artista, poche note, ma così la ricordiamo. Ha subito fatto un'espressione che alla radio non si vede, era una che forse riusciva a dare delle indicazioni al di là della quotidianità e della cronaca, come dicevi prima, Amy Winehouse. Noi abbiamo al telefono, tra l'altro, una tua grande fan, Chiara Di Giambattista. Chiara, grazie per essere tornata al Sabato del Villaggio con noi. Chiara, ma grazie a voi, ciao Marta, ciao al grande Franco, che insomma ciao Chiara, che è veramente un artista meraviglioso. Guarda, inizio subito col dirti che io ho iniziato a piangere guardando il film di Amy Winehouse sui primi fotogrammi e ho smesso alla fine. È stato un grande successo al cinema in questi giorni questo documentario. È un film che fa molto male, sì, è un film che fa molto male, perché se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio o non si ricordasse la grandezza di quest'artista, questo è un film di una sincerità quasi esagerata. È un racconto bellissimo di una donna che incredibilmente molti dei ragazzi che vanno anche nella scuola di Franco, anche i giovani artisti, spesso sono un po' abbagliati da questo desiderio di successo, mentre invece lei aveva una caratteristica: lei il successo non lo voleva. Lo diceva, non voglio diventare famosa. Non voglio diventare famosa. Io, per me, diventare famosa, uno dei vantaggi dell'essere famosa per me vorrebbe dire poter fare la mia musica, poter fare quello che voglio io, ma non mi interessa la fama. E la cosa incredibile è vedere quanto poi la fama, anche lei non viveva più, appena usciva di casa era tempestata da questi flash abbaglianti, qualsiasi passo lei facesse era seguita ovunque, ed era una donna fragile, sgomenta, purtroppo devo dire in balia di due uomini, suo padre e l'uomo che lei ha molto amato, quello che poi è diventato suo marito, che non hanno, mi spiace dirlo in maniera così cruda, non hanno avuto pietà di lei, non hanno avuto vero, Chiara, assolutamente neanche un briciolo di voglia di aiutarla, ma la cosa incredibile era questo rapporto di lei con questo suo padre. Ogni volta che lei parlava con suo padre si trasformava immediatamente in una bambina di 6 anni. È una scena bellissima in cui lei si trova in questa isola dove sta cercando un po' di buttarsi via da addosso tutti i suoi demoni. Suo padre va lì addirittura con una troupe televisiva, senza dire, no, voler rispettare la sua, quel suo momento di privacy. Quasi in un momento la sgrida perché lei ha fatto una battuta a due ragazzi che volevano fare una foto con lei, e lei in quel momento in un attimo torna bambina e lo guarda come veramente una bambina guarda suo papà che la sta rimproverando. È un momento tenerissimo, ma struggente, ma veramente struggente. Chiara, ti devo ringraziare per averci aiutato a capire perché ha avuto grande successo questo documentario, perché dobbiamo ricominciare ad ascoltare, perché non dobbiamo smettere di ascoltare Amy Winehouse. Grazie a Chiara Di Giambattista, che è stata con noi. A prestissimo, Chiara. Grazie a voi, grazie, un bacione anche a volevo te. Volevo solo dirti, Chiara, che esattamente sono le cose che noi diciamo ai ragazzi. Cioè, non andate a cercare il successo, andate a cercare voi stessi e cercate in qualche modo di strutturarvi quanto più possibile, perché la vita del musicista è una delle cose più difficili del mondo. Straordinario. Io voglio concludere con questo consiglio straordinario, Principe di Franco Mussida, questa sera alle 19:30 in Expo. Bene. Grazie a Carmelo, grazie a Cristian che mi hanno aiutato per questo sabato il villaggio, però noi siamo ancora tra poco con Radio Tube.